chiedo se la morte sia la fine o un nuovo inizio. Non capisco quale sia lo scopo di ogni mio vizio. Senso della religione, la voglia di ribellione, il valore legato a nome, perché di ciò che subisco. E poi, qual è il confine tra ragione e pazzia? C'è differenza tra passione e follia, e la gelosia, frutto dell'amore o di una bugia? È il mondo che è monotono, o è a noi che manca la fantasia? Fre domande riempiono la mia mente, eventi spiegabili riempiono il mio presente. Vorrei essere in grado di comprenderli veramente. Uno che vive, non uno che esiste, semplicemente. Ma siamo solo gli ingranaggi di un sistema più complesso, risultato di un passato che non ci appartiene, ma che ci portiamo appresso. Convinti di saper gestire ciò di cui in realtà siamo in funzione, e di essere gli esseri all'apice dell'evoluzione. Ma se siamo così evoluti, perché questi interrogativi risolti, questi risvolti contorti nei quali siamo coinvolti? Basta guardarci un attimo da fuori per capire che siamo succubi della vita. Non ne siamo i padroni. Io mi chiedo il perché di quello che vedo, senza senso quello in cui credo, più penso più me lo chiedo. Sì, io mi chiedo se esiste un'alternativa alla monotonia, che non sia la follia. E ancora mi chiedo perché sta vita non è rose e fiori, ma è sempre solo spine e rovine. Io mi chiedo troppe cose per poterle racchiudere in versi. Noi siamo esseri schiavi dei compromessi, capaci di accontentarsi pure con gli eccessi. Esseri complessi, pieni di complessi, in grado di formulare solo pensieri sconnessi. E sa, pensi quanto mi pesa che tutto sto casino. Molti pensano di aver trovato un senso nella chiesa. Non è poi detto che un senso ci sia. Magari ciò che ci tocca sono solo anni di agonia. Ma noi chi siamo, da dove veniamo, perché esistiamo? Drammi esistenziali che da secoli ci poniamo. Da dov'è che nasce il mondo, come mai il mondo è tondo? E perché i giorni, mesi, anni equivalgono ad un secondo? Perché ci sono le stagioni, perché cattivi e buoni? Siamo tutti diversi ma vogliamo essere coni. Perché un amore finisce, perché un amico tradisce, perché la vita perisce, perché il tramonto colpisce. E che passiamo il nostro ordine su ordinate scisse, che gusto ci prova a mezza latina a farsi le strisce. È così difficile fare il figlio, ma ancor di più fare il padre. Seguire strade solo in base a ciò a cui assomiglio. Ho imparato che non ottieni niente se aspetti. La vita non sarà mai come te l'aspetti. Ho capito che non c'è bisogno di amici perfetti, perché la cosa più bella è sapere amare i difetti. Ma io mi chiedo il perché di quello che vedo, senza senso quello in cui credo, più penso più me lo chiedo. Sì, io mi chiedo se esiste un'alternativa alla monotonia, che non sia la follia. E ancora mi chiedo perché sta vita non è rose e fiori, ma è sempre solo spine e roviglie. Io mi chiedo troppe cose per poterle racchiudere in versi. Che l'unico modo per vivere senza angosce sia smettere di porsi troppe domande senza risposte. Perché la vita senza il dubbio cos'è? Perché la vita senza il dubbio cos'è? Io so che ho solo una chance e me la gioco al meglio. Adesso so sognare anche quando sono sveglio. E se un domani capirò qualcosa in più, tanto meglio. Ma anche se non accadrà, pazienza, fa lo stesso.